Storiacce di Raffaella Calandra. Rinascerò, rinascerai. Papa Francesco ce lo ha ricordato più volte in questi lunghissimi giorni di pandemia: nessuno si salva da solo. E in questa emergenza, più che mai, da subito è stato chiaro come i comportamenti di ciascuno hanno sempre effetti sulla vita di tutti gli altri. Nessuno di noi è una monade, nessuno può pensare solo a se stessa, e senza che noi neanche ce ne rendiamo conto, infatti in tantissimi, anche in questi giorni di blocco, stanno continuando ciascuno con la loro azione a salvarci e ad aiutarci. Non sempre però vengono ricordati, non sempre però vengono nel modo adeguato tutelati, eppure in questo momento sono loro soprattutto le figure che stanno scrivendo la storia, quelle che il Pontefice ha invece voluto elencare una ad una nella sua preghiera solitaria in una piazza San Pietro mai così deserta. E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari e la vita dello spirito capace di riscattare, di valorizzare, di dimostrare come le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni, solitamente dimenticate, che non compaiono nel titolo dei giornali e delle riviste, nelle grandi passerelle dell'ultimo show, ma senza dubbio stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia. Medici, infermieri e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alla pulizia, badanti, trasportatori, forze dell'ordine, volontari, sacerdoti, religiosi, e tanti, ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo. Se possiamo comprare al supermercato ancora del cibo è perché ci sono stati tanti che non hanno mai smesso di produrlo e di farcelo arrivare. Se possiamo andare in farmacia è lo stesso. Se chi deve spostarsi trova ancora dei mezzi pubblici è perché qualcuno continua a guidare tram e autobus per dovere, anche se quasi vuoti. Se negli ospedali avvengono le sanificazioni per allontanare il virus è perché ci sono persone che continuano a pulire. Sono loro che stanno scrivendo la storia ora, ma non sempre ricevono la stessa considerazione. Ci vengono nascosti i positivi, ma comunque noi veniamo a saperle queste cose, e sta di fatto che a noi non fanno tamponi. Questa è la voce e la storia di Francesca, che preferisce restare anonima per non mettere a rischio il suo posto di lavoro. È una dipendente di una società di pulizie all'ospedale Santo Bono di Napoli, ospedale pediatrico della città. Anche lì ci sono dei casi tra piccoli pazienti e tra personale sanitario, ma c'è omertà rispetto al contagio. A noi non fanno il tampone e andiamo in giro come bombe ad orologeria, denuncia ora a Storiacce. Beh, si sono mossi durante gli ultimi 10 giorni a fare test rapidi a medici e infermieri e OS. Noi invece, che facciamo parte dell'azienda esterna e quindi ditta di pulizie e di sanificazioni, non siamo neanche stati presi in considerazione. Ma ci sono dei casi di contagio tra i pazienti, sì, del Santo Bono? Come bambini ricoverati soltanto 2. Per quanto riguarda invece medici e infermieri, ci risultano almeno 16 positivi, 16, con cui abbiamo avuto contatti, vuoi perché siamo saliti in ascensore, vuoi perché abbiamo avuto... Io personalmente ho avuto contatto dove fanno le sacche parenterali con un'infermiera uscita positiva, sia al test rapido che al tampone. Diciamo che c'è una bella preoccupazione, nel senso che io potenzialmente potrei essere asintomatica, ma come tutti i miei colleghi che hanno avuto contatti con operatori sanitari che sono usciti positivi ai test, la cosa che più ci ha fatto innervosire è che alcuni hanno fatto il tampone perché sono stati raccomandati dai sindacati, attenzione, ospedalieri, mentre invece noi no, perché non abbiamo questo tipo di amicizie. Voi temete quindi di essere stati contagiati, ma quindi e di continuare anche a lavorare lì e quindi eventualmente di diffondere il contagio? Assolutamente sì, potremmo essere potenzialmente tutte delle bombe ad orologeria. perché la sintomatologia, e ci sono stati parecchi, quelli che hanno avuto sono usciti positivi al test, venivano a lavorare perché erano asintomatici, poi sono stati messi a quanto pare in quarantena, perché poi dovranno ripetere il test, perché ci siamo venuti a contatto con queste persone. Dirsi così bistrattati, così emarginati soltanto perché ditta di pulizie, a me sta pesando tanto, le dico proprio la verità. Ma voi avete fatto qualche segnalazione, cioè in qualche modo avete chiesto sì. Che cosa... Sì, abbiamo, allora inizialmente c'era stato detto che i test rapidi sarebbero stati estesi anche a noi aziende esterne, quindi non soltanto noi delle pulizie, ma anche le guardie giurate, anche le ditte che eseguono lavori di manutenzione nell'ospedale, perché ci sono idraulici, ci sono elettricisti, comunque stiamo venendo tutti quanti al lavoro, perché questo è un ospedale, bisogna garantire il servizio, noi mettiamo a rischio la nostra vita tutti i santissimi giorni per essere ripagati di questa moneta. Hanno detto che di noi si dovrebbe interessare le nostre aziende private, abbiamo chiesto all'azienda privata e loro, mandando ovviamente i caposquadra nella direzione sanitaria, di tutto punto gli è stato detto che non avevamo assolutamente diritto a questi benedetti test. Se la situazione è difficile per tutti e quella dei tamponi lo è stata da tanto tempo anche nella più colpita Lombardia, questa di Francesca e dei suoi colleghi è una legittima richiesta, non solo per sé, quanto per non diffondere il contagio altrove. Loro hanno continuato sempre a fare il loro dovere, come l'hanno fatto i medici e gli infermieri, e in più di 100 sono morti in questa epidemia, come siano diventati ormai 100 anche i religiosi che hanno perso la vita per non smettere di portare il conforto, per non smettere di concedere una benedizione ai morenti, come il parroco di Alzano Lombardo, che non è mai uscito dall'ospedale, ora al centro di inchieste per essere diventato il principale focolaio di contagio nella Bergamasca, o come Don Matteo Cella di Nembro, ultimo rimasto non contagiato di questo piccolo comune della provincia di Bergamo, tra i più colpiti. A Bergamo abbiamo avuto tantissimi decessi di sacerdoti, la chiesa bergamasca è molto colpita, forse uno dei motivi è anche la vicinanza alle persone che comunque si è cercato di mantenere nelle forme e nelle modalità che comunque le circostanze rendevano possibili. Ci aspettiamo che questa Pasqua, che purtroppo non possiamo celebrare con le persone, non ci si può stringere la mano, farsi gli auguri e condividere un momento di gioia, cioè che comunque questa Pasqua rappresenti l'inizio di una rinascita e che comunque sia un segno che dia forza, passione per la vita. Ci riportano da un lato all'essenziale, che forse è anche uno dei risvolti con i quali stiamo vivendo questa esperienza drammatica dell'emergenza coronavirus, no? Ritrovare le cose che davvero ci sono essenziali e alle quali non possiamo fare a meno, e dall'altro che ci restituisca uno sguardo lungo sull'orizzonte, un po' fiducioso, che ci permette di dire davvero ce la possiamo fare. Che cosa significa per un sacerdote sentire il dolore di una comunità nel non potere neanche avere il congedo rispetto ai propri cari? La nostra priorità è la vicinanza alle persone che soffrono. Le persone che incontriamo sono molto consapevoli del dramma, ma sono anche consapevoli del fatto che è un dramma condiviso, lo si porta insieme, non è una situazione di abbandono. Ecco, l'altra cosa che cerchiamo di fare è di far avvertire che nessuno è abbandonato, perché ci sono anche tante situazioni di fragilità, di povertà, che normalmente vengono accompagnate per esempio dalla Caritas o da altri organismi che si occupano dei più fragili, che in questo momento rischiano di essere dell'emergenza nell'emergenza. Un aiuto anche per i tanti per cui si sta aprendo un'emergenza nell'emergenza legata alla perdita di guadagni, un fronte che rischia di spalancarne molti altri, soprattutto nelle realtà già difficili come certe periferie, dove il rischio ora è che ne approfitti la malavita organizzata anche nel fomentare rivolte, come già avvenuto e come stanno avvertendo in tanti e come conferma dai margini di Brancaccio e dello Zen di Palermo Maurizio Artale, presidente del centro Padre Nostro. Abbiamo avuto un incremento di 80 famiglie in più che si sono rivolte al centro. Queste persone che in qualche modo, facendo dei lavoretti nero, prima riuscivano a sbarcare il lunario, ecco, questo è venuto anche a meno. Ci faccia un po' capire, ecco, il profilo di questa fascia, che la maggioranza falegnami, elettricisti, e di limuratori. Ecco, arrivato a un certo punto questi si sono fermati, però questa rabbia come dire, va crescendo. Ecco, quelle 4-5 persone che hanno intercettato, quello è un allarme. Ecco, quindi c'è l'urgenza di intervenire in maniera come dire, organica e composita. Lo Zen è un po' diverso, là c'è un disagio sociale molto ma molto più elevato. Ecco, là purtroppo abbiamo anche assistito a quello scippo che hanno fatto a quella ditta che in qualche modo portava a domicilio il mangiare. Ecco, quelli sono naturalmente dei picchi, non è la regola. Gli ultimi degli ultimi poi sono i detenuti, coloro che hanno sbagliato nella vita, di cui quasi mai ci si occupa, coloro che restano confinati ai margini delle nostre città dietro ad alti muri di cinta. Più volte invece proprio con loro il Papa ha celebrato i riti di Pasqua, a loro ha più volte rivolto il pensiero anche in questa emergenza, quando il sovraffollamento ha trasformato celle troppo piene in luoghi ancor più pericolosi. In 400 circa sono usciti dalle carceri e finiranno di scontare la pena ai domiciliari. In Lombardia, dove è già più grave l'emergenza sanitaria, quella penitenziaria poi lo è stata ancora di più dopo l'incendio nel Palazzo di Giustizia di Milano. Lo ricorda il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Vinicio Nardo. In Lombardia ovviamente anche abbiamo anche i contagi dentro il carcere che rispecchiano poi i contagi fuori dal carcere. Incendi in realtà a resi inagibile il piano, dove non c'è soltanto il tribunale di sorveglianza, si occupa dei detenuti definitivi, che sono quelli che dovrebbero uscire col braccialetto secondo le ultime deludenti novità legislative, ma c'è anche l'ufficio del GIP che si occupa dei detenuti in custodia cautelare. L'incendio impatta sul carcere in maniera pesantissima ed è per questa ragione noi qui a Milano abbiamo fatto una serie di proposte specifiche. Bisogna intervenire con delle misure deflattive di emergenza, che per carità possono durare magari anche 6 mesi. Visitare gli infermi, visitare i carcerati, in fondo è da sempre una delle 7 opere di misericordia, titolo anche di una celebre opera di Caravaggio conservata al Pio Monte di Misericordia di Napoli. Un altro volto di una Pasqua che quest'anno è stata senza festa e senza chiese. Storiacce. Suonano le campane della Pasqua, ma quest'anno non richiamano nessun popolo. La Chiesa Cattolica festeggia la risurrezione, ma l'Italia è ancora chiusa nei sepolcri della pandemia e aspetta, insieme a tutto il mondo, di poter tornare nelle chiese, nelle strade, nelle vite precedenti questa lunghissima quaresima di dolore. È una cosa mortificante per tutti, ecco, non tutta la comunità che non può trovarsi per quel momento centrale della nostra fede, del nostro cammino. Però è la prima Pasqua, è stato celebrato così. Nel Vangelo di Giovanni dice che mentre erano chiuse le porte del luogo in cui si trovavano i discepoli, quindi le porte erano chiuse, come sono chiuse in sostanza le porte delle nostre case. E che cosa succede nelle porte chiuse? Che Gesù venne in mezzo a loro e disse loro che iniziava la missione. Gli ha donato lo Spirito per dire comincia una storia nuova. E io prego che anche questa Pasqua le persone che vivono in case dalle porte chiuse sia visitata dal Signore risorto e perciò sia riempita di gioia. È questa vita nuova ricordata da Monsignor Mario Delpini, vescovo di Milano, la vita che rinascerà dopo i lutti, i contagi e le chiusure, quella che l'Italia aspetta da una Pasqua in cui anche i riti sono stati adattati all'emergenza, a cominciare dal Vaticano, dove Papa Francesco impartirà la benedizione Urbi et Orbi su una piazza San Pietro vuota, come nella preghiera più drammatica per invocare la fine della pandemia, tempesta improvvisa per un mondo, secondo il monito del pontefice, che non ha ascoltato il grido del pianeta malato. Siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci di tutto, avidi di guadagno, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. E come a Roma, così a Gerusalemme, i luoghi simbolo della cristianità restano lontani per i fedeli, ma comunque destinatari, rassicura padre Ibrahim Faltas, custode di Terra Santa, delle loro preghiere. Una Pasqua con le porte chiuse, ma si apre il sepolcro per le nostre celebrazioni. Facciamo anche la messa di Pasqua nel Santo Sepolcro, come normale, ma con 10 persone. Non sarà gente, non saranno anche più di 10 persone, ma celebriamo la nostra Pasqua dentro il Santo Sepolcro e preghiamo per tutto il mondo. Tutti chiusi, anche nella città vecchia di Gerusalemme, dove, come nei vicoli antichi di molte nostre città, è ancora più difficile mantenere le distanze. Auguro che questo tempo così difficile per tutti, resisteremo e vinceremo uniti anche questa terribile sfida e torneremo presto ad abbracciarci. Auguro a tutti, anche il popolo italiano, di vivere questa Santa Pasqua come un passaggio, come il passaggio della schiavitù d'Egitto verso la terra promessa, come un passaggio per tutti noi da questa emergenza ad una vita nuova. Una vita in cui si dovranno a lungo fare ancora i conti con gli effetti del coronavirus, ma sarà comunque vita che ricomincia, saranno comunque porte che si apriranno di nuovo invece che chiudersi, come nelle varie zone rosse che hanno reso impossibile la partecipazione anche alle funzioni nelle chiese, dove l'animo tornò tante volte sereno, per dirla con i Promessi Sposi, in quel passaggio dell'addio ai Monti di Lucia che nella sua ora più buia comunque ricorda che chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne, scriveva Manzoni, una più certa e più grande. È l'invito a non aver paura, rinnovato ogni giorno attraverso tutti i canali della tecnologia, al servizio ora più che mai del bisogno di spiritualità. Lo ricorda Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia della Vita. In questo periodo di passione Gesù non ci abbandona. Gesù entra a patire con noi. Dice l'Apostolo Paolo che Gesù conosce bene il patire. In questo senso, ecco, noi possiamo capire ancor più la vicinanza del Signore che si fa accanto a noi subendo le stesse tragedie, ma confidando in Dio, pregando il Padre del Cielo che ci liberi dal male. Il male è quel virus che ha fatto partire colonne di bare su mezzi dell'esercito senza neanche il diritto al commiato, con medici invitati dalle curie ad impartire l'estrema unzione, mentre anche i preti si contagiavano. Un centinaio quelli uccisi dal coronavirus, ma i religiosi nelle forme consentite non hanno mai smesso di portare conforto, spiega il penitenziario maggiore del Papa Mauro Piacenza. Per le persone ammalate, allora la questione di far fronte in tutti i modi con la spinta apostolica che la Chiesa deve sempre avere. Si è parlato anche della possibilità di una soluzione collettiva che può essere sempre data normalmente comunque in eminenza pericolo di morte, e allora la penitenziaria apostolica ha chiarito che soprattutto nei luoghi maggiormente interessati al contagio ricorrono proprio i casi di grave necessità previsti dal catechismo della Chiesa Cattolica, e la Chiesa è continuamente spinta a cercare il modo per raggiungere sacramentalmente questi fratelli e queste sorelle contagiati, perché sappiano che Cristo stesso, che della Chiesa è capo, per mezzo della gerarchia del sacerdozio vuole raggiungerli e li vuole salvare. Ora, nell'attuale situazione ricorrono senza dubbio alcuni casi di grave necessità, in presenza dei quali è consentito ai ministri ordinati, quindi ai vescovi e ai preti, di impartire la soluzione collettiva senza la confessione individuale, e quindi si è presente fisicamente come si può naturalmente. Ecco, per esempio abbiamo pensato che potrebbe essere che il sacerdote possa, accordandosi con le autorità sanitarie del luogo, ecco, possa in un atrio precedente al reparto dove ci sono queste persone in queste condizioni, che possa raggiungerli almeno, diciamo, con la parola che arrivi, ecco, insomma, per esempio con una specie di piccolo megafono, qualche cosa del genere. La distanza dalle chiese ha fatto trovare nuove strade per unire comunque le preghiere. Così, in un certo senso, sono nati nuovi luoghi di culto sui social e sui canali TV. E c'è chi, come Don Francesco Gradino, parroco di Santa Maria alla Salute a Napoli, ha celebrato messa sul tetto. È stata una cosa estemporanea. Ci siamo trovati sul tetto e ci è venuta questa idea di fare questo tentativo. È andata bene perché la piazza lo permette, sono tutti i palazzi intorno, quindi le persone si potevano affacciare facilmente. Ed era comunque un modo per arrivare e ricreare il senso di comunità. Esatto, per fare questa comunità, per vederci pure anche se da lontano. Anche per far sentire le persone un po' meno sole. Sì, certamente. La mia che Gesù ha percorso, che ci parla della passione di Gesù. Testimonianze segno anche di un'unità della Chiesa sul territorio, più forte di ogni polemica o divisione, ricorda Martina Pastorelli, fondatrice di Catholic Voice Italia. Io mi sono detta, ma mostriamola questa Chiesa che c'è, che anche senza messa pubblica resta aperta a tutti, che si organizza con gruppi di preghiera e di condivisione. Ce ne sono talmente tanti, guarda, ci arrivano così tante segnalazioni che è impossibile menzionarle tutte. Raccontiamo questa Chiesa che manda i suoi pastori a stare con ovviamente le doverose precauzioni sanitarie il più possibile vicino alle pecore. Ecco, raccontiamo e raccontiamoci tutti i modi in cui in questi giorni difficili sperimentiamo la Chiesa che si fa prossimo. La Chiesa siamo noi anche, e questa comunità è importante che ci sia e che si faccia sentire. Tante esperienze sul territorio, ad esempio il parroco che fa il giro del paese sull'Ape per non far mancare il conforto, il sostegno, la parola. In questo momento non è utile dividersi, fare polemiche, le chiese chiuse, le chiese aperte, quello che è stato deciso, quello che poi è stato cambiato, modificato, ma che chiesa vogliamo comunicare, che chiesa siamo? Ecco perché è importante raccontare l'altra storia, ecco perché la Chiesa che c'è cerca di farlo con questi esempi concreti e queste testimonianze dal territorio. Nelle periferie già difficili, come quelle di Brancaccio o dello Zen di Palermo, la vicinanza della Chiesa è diventata in questi giorni anche aiuto economico per famiglie che si sono ritrovate senza entrate, conferma dal Centro Padre Nostro Maurizio Artale. Abbiamo avuto un incremento di 80 famiglie in più che si sono rivolte al centro. Queste persone che in qualche modo, facendo dei lavoretti nero, prima riuscivano a sbarcare il lunario, ecco, questo è venuto anche a meno. Falegnami, elettricisti, edili, muratori, ecco, arrivato a un certo punto questi si sono fermati, però questa rabbia, come dire, va crescendo, ecco, quelle 4-5 persone che hanno intercettato, quello è un allarme. Ecco, quindi c'è l'urgenza di intervenire in maniera, come dire, organica e composita. Lo Zen è un po' diverso, là c'è un disagio sociale molto, ma molto più elevato. Ecco, là purtroppo abbiamo anche assistito a quello scippo che hanno fatto a quella ditta che in qualche modo portava a domicilio il mangiare. Ecco, quelli sono naturalmente dei picchi, non è la regola. Rinascerò, rinascerai. gesti concreti di solidarietà, per alcuni mossi dalla fede, vissuta anche così, in una Pasqua privata dei riti e degli abbracci, ma forse ancor di più piena delle attese di credenti e non, in una prossima rinascita, una vita nuova dopo il dolore, proprio come nei versi della canzone divenuta l'inno di Bergamo, la città che più di tutte aspetta di risorgere. La tempesta che ci travolge ci piega ma non ci spezzerà. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Iscrivetevi sulla pagina Facebook di Storiacce o seguiteci su Twitter all'account Raf Calandra e su Instagram.